Io mi chiamo Mora Federico, sono del 1926, più giovane di lui. Una volta c'era l'amasso, uno faceva il burro, uno faceva il formaggio, il frumento, quelle robe lì, il vitello, c'era l'amasso dei tedeschi. Ogni agricoltore le prendeva una parte del prodotto, capisci? E mi ricordo che mio zio, per salvare il frumento, c'era una galleria lì sopra qua. Aveva nascosto tutta la roba dentro questa galleria perché i tedeschi non venissero. E Ah, siamo bel nel tempo di guerra tempo del questo. 15-18. Ah. E la galleria è lagata dopo. Ah, E ecco il mio zio, perché. per nascondere la roba, l'ha accettata per Ah, arrivare a entrare ho nella capito. galleria. E rispondeva giusta roba, che d'altra parte il formaggio e il ghirnaca dal mare. E avevano nascosto il formaggio. Esatto, per non darlo l'amasso. E dopo c'è un'altra cosa, che là dove c'è l'Orestima adesso, era l'Hotel Savoia, Sì, ti ricordo, l'Hotel adesso. Savoia, mi ricordo era gestito dal Robi, Un albergo di lusso a di quei lui, è tempi. un Adesso c'è albergo. l'Eurospin e poi c'era il giardino. No, Pensi che attraversare, cioè, dalla c'era parte un bel opposta. giardino proprio, attraversando la strada, non c'erano le macchine come adesso da guardare, lì attraversavano e portavano, i tavolini erano nel giardino dalla parte opposta. Come De... adesso c'è il E c'era. parcheggio. E i camerieri attraversavano lo stradone, perché macchine ne passava una, non so, ogni tanto. A pranzo tutti i forestieri gli piaceva stare fuori nel giardino. E allora i camerieri andavano e venivano sempre vestiti in nero e bianco, Esatto, proprio esatto. elegantissimi. Questi forestieri, perché allora quando venivano erano gente proprio I più signori che ricca, signori, di girangirano, tanti, lombardi tanti, sì, anche esatto. romani ce n'erano. E noi andavamo a vedere, quando poi la sera, l'estate, facevano i balli dalla parte Sì. opposta, se loro O balà conoscono. li amò a Camilli, o balà li amò a Camilli. Sì. Quando veniva l'orchestra, non so se veniva da Riva, da dove L'orchestra, venivano sì. le orchestre, e invece si ballavano a vedere queste signore. Vestito in lungo, per noi era qualcosa, no? Che anni era? La famosa colonia, dopo è venuta, dopo l'hotel, è venuta la colonia San Paolo. Dopo c'è vista la colonia Sì, San ancora Paolo. prima della guerra, eh? E la sera poi quando c'erano i forestieri a vedere queste signore con l'abito lungo che ballavano, l'orchestra che veniva da Brescia a Milano, non so da dove venivano, perché il Savoia. C'era sempre gente, era un albergo molto a quei No, tempi era di bello, lusso. bello. Ma era hotel prima della seconda guerra mondiale, eh? O No, dopo? Questo era. dopo la guerra mondiale era hotel, dopo la guerra mondiale, Sì, 15-18, non dopo. intendiamoci. Poi dopo è venuta la guerra e là era un centro di tedeschi, hanno occupato tutti i tedeschi lì e il vero comando tedesco era la villetta lì sopra della Mary. Sì, Quella villetta lì che i il gendarmi che comando c'erano era la e forza. dopo è venuto subito la famosa colonia San Paolo che venivano da Rovigo, portavano questi scolari, gioventù, era una vera colonia. E lì mi ricordo c'era una maestra che ci ha proprio aiutato a sfamarsi, noi famiglia. La famiglia Mulatti, mi ricordo, era la direttrice della colonia. Era giù che era giù il ben di Dio e ci portavano sui piatti da mangiare, ci portavano su. E che buono che era, perché la fame. E dopo si è finita questa famosa guerra. E io praticamente ancora del 44, ma avevo 18 anni nel 44, e mi avevano preso e portato a fare il militare come polizia trentina. Abbiamo portato a Trento, abbiamo fatto l'addestramento lì a A Trento e dopo Trento? il distaccamento Eh sì, eravamo perché andati a andavano Cles. tutto a E da Trento, Trento eh. a Cles, tutto in marcia la notte, e cantare le canzoni tedesche. Lì avevo trovato i nostri compagni come militari. Poi me li ho trovati nel 48, ancora i medesimi sotto l'Italia. Ancora i medesimi che c'erano là sotto l'Italia, per quello che mi hanno cercato di darmi un posto. Favo l'infermiera a Merano io. Allora sono andato in infermeria a imboscarmi, perché c'era già un po' di esperienza. E dopo ho fatto un po' il contadino, ho fatto il capo, c'era la famosa TOT. Questa incomincia bella. Era la TOT, ancora un tempo di guerra. Era la TOT, e qua per prendere l'esonero e andare in guerra con i tedeschi, qua c'erano tutte officine che facevano quelle brocche, le famose brocche, che è molto interessante. Anzi, c'erano qua 2, 3, 4 officine qua, e tutte a battere la brocca. Bisognava farne 500 brocche al giorno, ma tutto a mano, tutto a mano. Non aveva mica attrezzature come adesso, no. Io so che quando passavo di lì, dove c'erano questi laboratori, c'era sempre allegria, cantavano, ridevano, ecco, sempre. Dicevo, guarda che buon tempo che qua. No, una volta si sentiva la gente a fischiare, cantare, il filò delle stalle, ti ricordi? Ogni famiglia aveva una bestia, una vacca, 2, 3. Aveva una capra, il maiale, tutte le famiglie avevano per arrivare. Era un salotto, la stalla era salotto. Esatto, ci stava al caldo. Filò la sera per rimanere al caldo, capisci? E lì magari facevano le castagne, lì cantavano, si divertivano molto di più di adesso. Adesso ti vado di lì, non che più. Non c'è più compagnia come una volta, almeno salvo errori. Una volta cantava, sì. Si trovava anche dopo messa seconda, sì. Io cantava, dico, se prendeva magari un fiasco di vino, 7-8 là, si beveva e si cantava, tutta un'allegria che faceva paura. Andavano nella stalla, si radunavano magari 2 o 3 donne, uomini, donne, sì. E lì una filava dalla lana della pecora, filavano la lana col famoso molinello, se chiamavano molinello. Molinello, chiamavano molinello. E fava ste robe, l'altro magari scartucciava, l'altro lavorava. Parliamo più tanto delle donne, però entravano anche qualche uomo, per forza. E lì rimanevano almeno al caldo, non c'era riscaldamento in casa. Che in casa non ce n'era stupe. Riscaldamento delle mucche. E con il riscaldamento delle mucche si scaldavano, si divertivano. Magari diceva solo alla corona, perché si gattava questi gruppi nelle stalle, e diceva solo alla corona. Se volevi sapere notizie, vai lì in quella stalla, lì o in quella là. Ma no, ma telegiornale. Avevano fantasia, perché raccontavano storie, tanto per passare il tempo, né? Ma fin verso le 9, dopo le 9, la sera, soprattutto l'inverno, dopo le 9, ce ne andavano tutti a casa propria. E se no, c'era i famosi focolai sì. Con la cappa, una panca di qua. Oh, casa mia c'è ancora. E lì si godevano il suo fuoco, cercando, pipando, ma con la pipa. E lì c'era la pentola con la catena, mettevano la pentola, facevano il minestrone, la minestrina del cavolo, lavoravano tutto sul fuoco. Era bello, sa? Ma io a casa mia non ho voluto demolirlo, non c'è ancora. Anche da molto fugolare. Sì, c'è ancora. Anche la catena, tutto c'è ancora. Ah, quello lì rimane lì. Non c'erano le poltrone come adesso. Panche, gli sgabelli. Sgabelli. Qui tre piedi, se si dava lì, o magari su. Era bello carnevale, quando passavano le maschere. E era altro che minestrone, brubusan, chi fava da mangiare, tutto il pignatone lì, fava la minestra per 2 o 3 di mangiare. Siamo venuti grandi e vecchi, con quei minestroni, con quelle polente. La mosa, sai cos'è? Ce lo racconta. Quella zuppa è fatta di farina gialla. Al posto di polenta gialla era la favola con latte, era una roba che si mangiava. Beh, e si mettevano il burro anche dentro. Sì, il burro non mancava, forse buono. Anche troppo a quei tempi, perché tutti avevano le mucche, tutti erano, e formaggio non mancavano. E voi al tempo usavate la tessera per andare a prendere il pane? C'era anche quella. Ah, per il tempo di guerra. Il sì. Pane, sì, il pane. Il tempo di guerra, sì. Non c'è mai mancato, Sì, non c'è mai mancato. Perché qua mettevano anche il frumento. C'erano le patate, il frumento e il grano saraceno, che sarebbe stato il marito, e i fagioli. Che a me la polenta di grano saraceno, quando la mangio, con le rare volte che mi capita di comprarla, la compro e la mangio ancora volentieri. La mangerei anche in questo momento. Anche sì. Le donne incinte, non è che rimanessero a casa, andavano fuori a battere via il frumento, ti ricordi il frumento? E lo mietevano con la faccia. Facevano dei piccoli covoni. Ecco, sì. Ti sei tagliato bene. E dopo, quando i covoni di sera erano secchi, andavano in testa ai campi, che c'era la bolza, che chiamavano, la bolza. Bolza e lì sì. Battevano, c'era un attrezzo che chiamava il flail in dialetto. E lì battevano il frumento sul posto. Perché non avevano mica macchinari a quei tempi, no? Erano due pezzi di legno, uno più lungo e uno più corto. Si batteva per sgranarlo? Sì, per sgranarlo. Tanto i fagioli come il grano saraceno, come il frumento. Non c'erano mica macchinari a quei tempi. E mettevano subito, seminavano il grano saraceno. Ci fischiettate o ci canticchiate una canzone che si faceva allora? Mi ricordo Faccetta Nera. Faccetta Nera. Cominciato. C'erano i figli della lupa, che erano quelli che andavano. Figli della lupa. Figli della lupa, balilli, avanguardisti, dopo piccole italiane. Eravamo noi. Il sabato facevano, bisognava andare sul campo sportivo. A Loca, sempre in divisa. In divisa, andavamo. E fare la ginnastica con chi trapei. Era un po' Bucani, il maestro che era severo, un fascistone. C'era severo, guardi che l'autunno andava sempre a caccia, il nostro maestro, sempre a caccia andava sempre. E quando arrivava al mattino, perché andava via presto, e quando arrivava bisticciavano per andarle a portare sopra la bicicletta. Faccetta Nera, bella vicina, cantare. Aspetta e spera che l'ora sia vicina. Faccetta Nera. Sì. Allora, era quel tempo allora quando Mussolini, bisognava fare queste cose. Perché non Mussolini... era come a dire i fagioli alla camera, no? Allora i batteva. Mancato niente. Non avevi la testa del fascio, veniva e ti dava giù l'olio di ricino.